24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8:19 minuti di questo martedì 10 marzo inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli italiani che restano a casa. Spero per tutti noi che sì, l'invito rivolto al Presidente del Consiglio sia stato introiettato come giusto che sia. Sì, che stanno a casa ma non sanno esattamente cosa fare, perché forse non lo sanno nemmeno le forze dell'ordine. Prima abbiamo parlato, dice, si può uscire con il cane? E ho detto, ha senso, sì, secondo me, se non c'è un assembramento col cane puoi uscire. Eppure ci scrive un ascoltatore: ieri sono stato fermato dalla polizia di Parabiago, provincia di Milano, invitato a tornare immediatamente a casa in quanto le disposizioni non prevedono l'uscita con il cane, nonostante fossi completamente da solo. Come capite, c'è un discreto livello di confusione. Prova ne sia l'altra ascoltatrice che ci scrive e ci dice: in questo momento in Viale Papiniano, per chi non conosce Milano, Viale Papiniano, un grosso stradone di Milano, tra l'altro a due passi da San Vittore, nel quale e stanno attrezzando il mercato del martedì del martedì di Viale Papiniano viene attrezzato, ecco, in questo momento. Qualcuno li avvisi che non sono previsti. No, ma qualcuno li avvisi, ma qualcuno, però Maria, scusami, qua è il comune che deve dire che il mercato non si fa, abbi pazienza, non è solamente l'assembramento, certo, delle persone. Nel senso che il comune si attivi, però è anche una questione di buon senso di tutti noi. Adesso, per carità, tutti quanti si devono attenere alle regole, ma visto che sono 5 giorni e visto che gli italiani sono sempre connessi, stanno sempre su Facebook, stanno sempre su tutti i social possibili e immaginabili, sarà venuto in mente a qualcuno che magari andare al mercato non è consigliabile. Cioè, faccio sempre, come ogni mattina, un confronto con gli altri paesi. Ci sono stati 3.500, non proprio furbissimi francesi che, travestiti da puffi, tutti, sì, vestiti di bianco e di blu, si sono ritrovati in un'area del nord scandendo pufferemo il coronavirus. Ora, per carità, tutti possono avere il loro momento di scarsa lucidità, però mi sembra che a questo punto, essendo adulti e vaccinati, sì, ciascuno si deve prendere le proprie responsabilità. Del resto, Maria, il presidente francese è andato a teatro con la moglie e ha detto: andate a teatro, state tranquilli, la vita prosegue normalmente. Quindi guarda, cosa pretendi? Poi tra un po' ci ripenseranno anche loro. Intanto il loro ministro Franck Riester, che tra l'altro è stato anche a Napoli di recente nel bilaterale che si è tenuto qualche settimana fa, ha annunciato di avere il coronavirus e probabilmente non sarà il solo nel governo dei suoi collaboratori a questo punto. Veniamo alle questioni italiane, tenendo presente tra l'altro che però in tutto ciò domani la partita del Paris Saint-Germain si gioca a porte chiuse e quindi evidentemente anche loro qualcosa hanno capito. Veniamo alle vicende italiane e a questa discesa di massa di persone verso il sud, dal nord al sud, che poi è di fatto quello che ha costretto il governo a dichiarare l'intera Italia zona arancione. Ne parliamo con due presidenti di regione, sono Nello Musumeci, presidente della regione Sicilia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E Michele Emiliano, presidente della regione Puglia, buongiorno, buongiorno. Emiliano, anche a lei, buongiorno. Eccoci qua. Maria, prego. Buongiorno, buongiorno Musumeci. Allora, buongiorno, lei è tornato a chiedere, Presidente, e a chiederlo a gran voce, di imporre controlli sanitari nei porti, negli aeroporti siciliani e nello stretto di Messina. Avete dei primi risultati di questo? Questi controlli sono stati applicati? Sì, abbiamo invitato chi veniva dal nord intanto a non venire, visto che ormai il fenomeno si era assai diffuso. Il nostro invito era rivolto all'autoresponsabilità affinché, arrivati in Sicilia, si contattasse il medico di famiglia e il medico di base come protocollo e ci si iscrivesse ad un apposito registro che la regione aveva già predisposto. Siamo a circa 8.000 arrivi. È chiaro che in questi casi il numero è sempre approssimativo, peraltro ancora l'operazione non si è conclusa, ma è accaduto quello che temevamo, perché molti siciliani o di origine siciliana, residenti o domiciliati nel nord per varie ragioni, poi dopo il provvedimento del governo, temendo di restare chiusi nella zona rossa, hanno deciso di fare il rientro in Sicilia, quando invece sarebbe stato molto più prudente rimanere dove si trovavano. E quindi abbiamo invitato all'autoisolamento con tutte le precauzioni che il buon senso suggerisce, e questo ha messo in tilt la macchina burocratica, la macchina della protezione civile, quella sanitaria, che ancora continua a rispondere alle esigenze quotidiane, ma è chiaro che c'è un sovrannumero che crea inevitabilmente difficoltà. Facciamo ancora appello al buonsenso, ecco, lei lo diceva poco fa, non è il caso di uscire se non per ragioni strettamente necessarie. Ci sono supermercati che provvedono al servizio a domicilio, e conviene che sempre una sola persona provveda a portare eventualmente il cibo nelle case, soprattutto degli anziani. Noi finora abbiamo compiuto 840 tamponi circa, sì. Per fortuna non abbiamo avuto decessi, soltanto 54 positivi, di cui 35 in isolamento, quindi possiamo dire che pur nella difficoltà e nella drammaticità della situazione nazionale, la Sicilia ancora resiste, ma non ci facciamo illusioni, perché è probabile che il picco arrivi nei prossimi giorni, e per questo stiamo già provvedendo ad attrezzarci anche. Quindi a maggior ragione stiano a casa, sì, Stiano a casa quelli che pensavano di andare in Sicilia. Un motivo in più per restare a casa, come faccio io da 4 giorni ormai, sono, come sapete, in autoisolamento. Spero che il tampone di domani dia esito negativo. Mi dia ragione, già il primo l'abbiamo fatto, ma è meglio aspettare 8 giorni dal presunto contatto. È andata meglio al collega Emiliano, che ha partecipato via telematica all'incontro, mentre io ero fra 2 colleghi del Piemonte e del Lazio, che poi purtroppo sono risultati positivi. Entrambi positivi. Rinnovo gli auguri a tutti e due. Poi ci faccia sapere Musumeci. Emiliano, da voi come vanno le cose? Quante persone siete riusciti a tracciare con questa storia dell'autodichiarazione? Posto che un po' mi sembra, Emiliano, che si siano chiuse le stalle con i buoi già scappati, perché in realtà sono 2 settimane che le persone partono dal nord e ritornano al sud, eh? Infatti noi nel sito apposito della Regione Puglia abbiamo segnalato 11.468 persone a questo momento. Sono quelli che si sono segnalati, poi ci sono quelli che evidentemente sono rientrati e che non si sono segnalati. Quindi praticamente abbiamo un esodo vero e proprio di persone che si sono spostate. Immagini che dall'8 marzo, quindi dall'annuncio della norma più severa che oggi è entrata in vigore, sono arrivate 4.651 persone che si sono segnalate. Quindi è un movimento di persone fortissimo, che è stato, devo dire, è stata la cosa che ha creato poi 56 casi, perché quasi tutte le persone che si sono contagiate vengono dal nord. Abbiamo qualche primo caso di contagi senza una spiegazione, che probabilmente significa che i focolai sono in giro, e questa ovviamente è la cosa che ci preoccupa maggiormente. Il sistema sanitario pugliese, pur essendo un sistema sanitario diciamo corretto, con buoni livelli essenziali di assistenza, ha però normalmente, purtroppo per nostra condanna, 15.000 dipendenti in meno del sistema sanitario dell'Emilia Romagna a parità di abitanti. E questa è la questione meridionale vera, e naturalmente abbiamo un sistema più debole di quello dell'Emilia Romagna o della Lombardia, perché così è, poi ne parleremo eventualmente quando l'emergenza sarà finita, sì. E naturalmente abbiamo un timore particolare. Quanti posti in terapia intensiva avete, Emiliano? Allora, noi in questo momento abbiamo disponibili per il coronavirus 208 posti, significa che possiamo gestire su 2.000 contagi noi consideriamo che la metà avranno bisogno di una ospedale. ospedalizzazione, quindi circa un migliaio. Di questo migliaio, secondo l'esperienza lombarda, un 15% potrebbero ammalarsi, potrebbero aver bisogno di attività rianimatorie. Stiamo cercando di potenziarlo e devo dire che abbiamo fatto un piano rapidamente, coinvolgendo anche la sanità privata che si è messa a nostra disposizione. Addirittura, mi scusi Emiliano, questo vuol dire che se ci fossero 2500 contagi, se ci fossero i numeri lombardi, se fossero rispettate per così dire le percentuali lombarde, con 2500 contagi nelle terapie intensive siete fuori, non riuscite a reggere. Quindi vorrei chiedere alla Emiliano, mi scusi, prego, lei è un magistrato, prego. Musumeci è un avvocato. Vi chiedo il punto di vista di un magistrato e di un avvocato su quella che viene considerata un'ipotesi e che è stata applicata con successo in Corea. Vale a dire, proprio a scopo di dissuasione, agganciare le celle dei telefonini, dei cellulari delle persone che si muovono e verificare se hanno ragione di trasferirsi al sud, hanno un motivo specifico o non ce l'hanno. Voi pensate che sia una limitazione della privacy che non si può introdurre nemmeno in questa condizione di emergenza, o pensate che a mali estremi, estremi rimedi? Facciamo prima rispondere al magistrato. Io, dottoressa, faccio il bancario, purtroppo conto i soldi degli altri, però a lume di logica posso soltanto dirle che in una condizione del genere invocare il diritto alla privacy, alla riservatezza, mi sembra davvero una estrema richiesta. Io sono convinto che lo Stato abbia il dovere fisiologico, prima ancora che costituzionale, di dovere difendere il diritto alla salute di tutti. Quindi qualunque rimedio possa contenere la diffusione del morbo non può che essere legittimo. Emiliano? Emiliano che dice? Diciamo che tecnicamente, se conosco bene le regole tecnologiche, i nostri telefonini sono tracciabili nello spostamento, il che non vuol dire intercettare le conversazioni, che è una cosa completamente diversa. Lo spostamento di una persona attualmente è sotto controllo, cioè nel senso che è una di quelle attività controllabili. Certo, se ci fosse una norma specifica nel decreto legge che stanno per emettere, sarebbe meglio per coprire queste indagini di massa che la polizia potrebbe facilmente realizzare, perché come tutti sanno anche ognuno di noi sul telefonino ha registrati tutti i suoi spostamenti, io non li ho mai cancellati, ce li ho sul telefono da anni, quindi è possibile per capire dove sei stato. Che il treno è in ritardo, no? Possono fare la stessa cosa? Sì, esatto. C'è stato un qualche problema. Allora, facciamo una cosa, fermiamoci un attimo. Emiliano Musumeci, rimanete con noi, un attimo, una pausa. Mattino. Allora, eccoci di nuovo con Maria Latella, abbiamo avuto un problema di collegamento. Eccoci, Emiliano, eccoci Maria, ci siamo. Sì, eccomi qui. Vai con allora, la domanda. Allora, Emiliano, dicevo, così come ci arrivano i messaggi quando siamo in treno dalle Ferrovie dello Stato che ci dicono arriverete con mezz'ora di ritardo, così eventualmente, se questa ipotesi fosse percorribile, uno potrebbe ricevere un messaggio sul proprio cellulare che gli dice: che stai facendo? Perché stai andando a sud? Le sembra un'ipotesi, come dire, surreale, da Grande Fratello? No, a me mi sembra un'ipotesi da Latella, perché davvero è fantastica. Ha avuto un'idea particolare, cioè nel senso che potrebbe essere che cambi, diciamo così, il nostro rapporto con lo Stato attraverso la tecnologia. È possibile che molte delle questioni che ci riguardano possano essere anche di iniziativa da parte dello Stato, iniziate attraverso un oggetto che ormai è diventato più importante della macchina del caffè o della spazzola per pettinarsi, perché insomma è diventato un oggetto quotidiano. Quindi perché no? Naturalmente è una questione politica delicata, perché essere disturbati è una cosa che ha un suo impatto. In questo momento non credo che ci sia nessuno che si senta disturbato dall'essere controllato dallo Stato. C'è un grande desiderio di essere protetti e controllati, il che evidentemente però deve fare riflettere tutti. Bisogna evitare che questo momento di emergenza cambi la testa delle persone e ci faccia rinunciare alla nostra privacy e alla nostra alla libertà personale. La testa, Emiliano, non sarebbe male, perché quelli che facevano la pericena. Mi riferivo soprattutto alla concezione della vita democratica. Se noi in questo momento dobbiamo fare tutto quello che serve e comportarsi in modo civile e intelligente, ma non perché l'esercito è schierato per strada, ma perché abbiamo desiderio di salvare il nostro paese e la nostra comunità. Esatto, per essere chiari, Emiliano, non è che si può diventare la Cina. Adesso mettiamola giù brutale, non è che si può diventare la Cina. Ecco, no, però lo dico Maria, perché su questo tema della privacy, scusa, mi è un po' mi nervosisco un po', perché questo tema della privacy non è che si può diventare la Cina. Però aspetta, torniamo da Musumeci, lo facciamo con un audio che ci è arrivato da un anestesista siciliana. Sentiamo. Io e i miei colleghi anestesisti e rianimatori siamo in attesa dello tsunami. Paradossalmente i colleghi del nord non erano consapevoli di quello che sarebbe successo. Per noi è ancora più brutto, perché noi siamo consapevoli, prevediamo la catastrofe e siamo in attesa della catastrofe. Ma la cosa brutta è che, nonostante abbiamo una decina di giorni di tempo per poterci organizzare bene, i nostri capi, la nostra azienda, la nostra direzione generale non sta facendo assolutamente niente per fornirci il materiale, anche a livello di meeting, di confronti, di percorsi ufficiali stabiliti. Ha capito Musumeci cosa ci dice? Cosa ci dice la nostra ascoltatrice? Rivolgo a lei, mi scusi, rivolgo a lei la stessa domanda che ho rivolto a Emiliano. I numeri, come siete messi con le terapie intensive? Allora, noi in Sicilia avremo bisogno di almeno altri 200 posti di terapia intensiva. Oggi disponiamo a pieno regime di 411 posti in rianimazione. Abbiamo già individuato gli spazi fisici dove allestire i posti letto, abbiamo già richiesto i macchinari necessari. Tenga conto che da anni la Regione chiede a Roma di poter essere autorizzata ad ampliare il numero dei posti in rianimazione. Lei sa che la Sicilia si è mossa in gestione commissariale, da cui siamo usciti soltanto da pochissimo tempo, per recuperare un danno contabile finanziario di proporzioni inimmaginabili. Partecipiamo per il 49% alla spesa sanitaria nazionale. Siamo assolutamente pronti ad affrontare anche il piano B. Certo, ci vorranno ancora giorni, perché nessuno fino a 10 giorni fa pensava ad una evoluzione così veloce e così ampia dell'epidemia. Però non è vero che il personale dirigenziale non si stia occupando di questa emergenza, che invece deve porre ciascuno di noi nelle condizioni di capire che anche in tempi, soprattutto in tempi di normalità, va previsto il piano B. E quindi anche quando si tratta di dover limitare la spesa, bisogna fare i conti con le previsioni e le prevenzioni, cose che purtroppo in questi ultimi anni non è avvenuta in Italia, ma credo che il problema non riguardi soltanto la Sicilia. Se mette in tilt questa epidemia il sistema sanitario della Lombardia, che per numeri e per fama, per apprezzamenti, era considerato ed è considerato il migliore in Italia, è facile immaginare come il sistema sanitario del sud in generale, della Sicilia in particolare, sia in affanno di fronte ad una condizione assolutamente imprevedibile. Ma nonostante questo, noi tanto per i posti in rianimazione quanto per i posti di infettivologia stiamo operando per essere già entro 4-5 giorni pronti. Abbiamo acquistato 17.000 mascherine per il personale, abbiamo allestito le tende che consentono all'imbarco sullo stretto di Messina ai passeggeri di potersi fare identificare. tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto, c'è stata confusione nel messaggio nazionale, ma qui è inutile intervenire. E se mi consente, a proposito di sicurezza sugli arrivi, io continuo ad esortare il governo nazionale a non autorizzare più l'approdo di navi, a cominciare dalle navi crociera. Ieri ne è arrivata una nel porto di Palermo con oltre 2.500 crocieristi. È chiaro che quando queste persone scendono dalla nave e vanno in città, non sappiamo se sono portatori del virus. Un senso di prudenza e di responsabilità dovrebbe indurre il governo nazionale, l'unico a poterlo fare, ad evitare che le navi crociere possano approdare in una costa italiana in un momento in cui viene dichiarata l'epidemia nazionale. Nelle carceri sta accadendo quello che è sotto gli occhi di tutti, purtroppo. Guardi, volevo porre una domanda a Emiliano sulle carceri. Da ex magistrato, Emiliano, lei pensa che ci sia una regia della criminalità, come in alcuni articoli oggi viene ipotizzato, segnatamente anche nel bell'articolo del collega Roberto Galullo sul Sole 24 Ore? C'è una regia? Insomma, devo dire che non è che sia sempre necessaria una regia per far partire queste cose, però non è da escludersi. Credo che i colloqui, però, questo voglio specificarlo, per un detenuto sono come l'aria. Infatti il 41 bis, la famosa norma antimafia per i grandi boss, limitava fortemente i colloqui, e questo è il punto, diciamo, più debole per una persona che sta in carcere. Quindi bisogna evidentemente spiegare bene che queste misure sono state adottate per evitare epidemie in carcere. Poi che qualcuno stia provando in questo momento a ottenere qualche provvedimento, perché insomma non è escluso che almeno i casi meno gravi possano essere, per motivi di sanità, in qualche maniera depressurizzati, questo è possibile, e quindi ci stanno anche provando, è possibile, non può essere esclusa questa ipotesi. Emiliano, con che tempi vi aspettate, per così dire, l'arrivo dell'esplosione di Covid-19 dalle vostre parti? Perché io penso sia abbastanza inevitabile che questo avvenga, Allora, noi abbiamo, diciamo, messo a capo della task force pugliese, credo uno dei più grandi scienziati italiani in materia epidemiologica, che peraltro è un pugliese, insegna all'Università di Pisa, il professor Pierluigi Palco, il quale ovviamente con determinati calcoli, qui devo dire funzionano più gli algoritmi e gli statistici che i medici in sé per sé, hanno previsto, diciamo così, che questo picco possa essere, ovviamente questi calcoli sono necessariamente sbagliati, anzi noi speriamo di averli sbagliati e che le misure in atto cambino questo scenario, dovrebbe essere per fine marzo, primi di aprile. Naturalmente se le misure funzioneranno, però nella sostanza noi riusciremo a tenere basso il picco massimo nell'unità di tempo, quindi non avremo 2.000 persone contemporaneamente contagiate e con la malattia conclamata, ma ne avremo meno. Se riusciamo in questa operazione di abbassare il picco, il sistema sanitario può tenere, perché lo abbiamo quasi totalmente dedicato, salvo l'oncologia e le urgenze, tutto il resto è dedicato al coronavirus. In questo dobbiamo ammettere che il sistema sanitario italiano è formidabile, cioè nel giro di pochissimi giorni siamo riusciti a mettere insieme una macchina impressionante per fronteggiare la situazione ospedaliera del coronavirus, e devo dire che questa sanità, che spesso ci fa arrabbiare perché non ci dà le prenotazioni quando vogliamo noi, perché utilizziamo spesso il pronto soccorso, diciamo, per farci le analisi del sangue e non quando è necessario, una prova resia che i pronto soccorso si sono improvvisamente svuotati di tutti i loro abituali avventori inappropriati, diciamo così. Adesso stanno lavorando veramente bene, e questa capacità del sistema sanitario nazionale di reagire è buona in tutto il territorio nazionale, nonostante che il nostro principale giocatore, che era la sanità lombarda, sia stato travolto da questa vicenda. Allora, grazie Michele Emiliano, presidente della Puglia, grazie Anello Musumeci, presidente della Sicilia. Un paio grazie, di voci di ascoltatori, giornata. Un paio di voci di ascoltatori, poi andiamo agli aspetti economici. Ho visto un bar qui ad Anguillara Sabazia pieno di gente a fare colazione e gente che esce tranquillamente per andare in giro. Non ne usciamo fuori. Se non ci mettiamo in testa di rimanere a casa forzatamente, non ne usciamo fuori. Penso che si stia chiudendo la stalla dopo che i buoi sono già scappati. Avevamo l'esempio della provincia di Hubei, che ha gli stessi abitanti dell'Italia. Loro hanno avuto il coraggio di chiudere tutto, lasciare le persone a casa, e in 2 mesi hanno ridotto i contagi. Noi siamo in ritardo. Sui rientri, attenzione a considerare quelli che sono qui al nord per lavoro, le aziende chiudono o fanno telelavoro assoluto e le persone decidono di rientrare tipo ricongiungimento con moglie e famiglia che magari sono rimasti in Basilicata, in Puglia. E dunque le voci dei nostri ascoltatori, a partire dalla prima, cara Maria, che ci richiama ancora una volta al rimanere a casa il più possibile. Certo, ribadisco, forse qualche chiarimento in più da parte del governo e non solo su cosa si può fare effettivamente e cosa non si può fare, non sarebbe male. Guarda, io credo che le emergenze così siano davvero difficilissime da comprendere per chi non ci sta dentro. Vedremo come se la caveranno adesso i nostri vicini francesi, tedeschi. E poi comunque ieri c'è stata l'altra botta, perché questo 2020 è veramente un esatto. anno bisesto ed è a questo che andiamo, il combinato disposto del coronavirus e della guerra del greggio tra l'Arabia Saudita e la Russia ieri ha condotto a dei ribassi in borsa pesantissimi. Milano meno 11%, le altre borse europee con cali intorno al 7%. Raffaele Ierusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Maria, prego. Buongiorno, lei non si è mai trovato, credo, in una condizione come quella di ieri con il VIX, l'indice della paura, quello che misura la volatilità dei mercati, che ieri ha toccato il punto più alto dal 2008, 55. Le voglio chiedere che cosa si aspetta e siamo solo all'inizio, perché la guerra, diciamo, tra Arabia Saudita e Russia è un aspetto, ma poi bisogna anche essere franchi, no, Ierusalmi? La situazione dell'economia in generale non era floridissima nemmeno prima, e il Covid-19 le ha dato una botta colossale. Ma sicuramente le economie stavano rallentando già prima di questa situazione che ovviamente lei citava, ma diciamo ci siamo trovati anche in simili circostanze in altre occasioni. Ovviamente i mercati oggi reagiscono molto violentemente e molto rapidamente alle notizie, e quindi questo mese i principali mercati del mondo sono azionari, escludendo la Cina, hanno perso circa il 20% del valore. È una correzione molto importante e molto violenta, quindi io credo che adesso, senza voler essere necessariamente troppo ottimista, credo che la correzione l'abbiamo già vista. Sicuramente la crisi del petrolio ha acuito le incertezze, ma credo che anche il tema del virus sarà fra qualche mese, spero, un ricordo. Io credo che l'abbiamo già passata questa esperienza con la SARS, sicuramente non eravamo stati coinvolti allora in questa maniera, ma credo che alla fine queste cose sono comunque fenomeni transitori. C'è qualcuno che ha ipotizzato addirittura la chiusura delle contrattazioni, Ierusalmi, almeno se non a lungo termine, almeno per qualche giorno, forse per calmare gli animi. Che dite voi? Ma noi siamo dell'idea che in generale questi provvedimenti non servono a nulla, perché i mercati sono globali e provvedimenti fatti o scelte fatte a livello locale sono devastanti, perché fanno perdere credibilità al mercato stesso. Se ci fosse una decisione a livello coordinato mondiale si potrebbe valutare, ma francamente non ci sono i presupposti. l'unica volta in e cui poi ormai dal 2007 Gerusalemme, ma quello per motivi diversi. Mi scusi, ma dal 2007 sì. Poi le azioni non sono più scambiate solo nelle borse, ma anche su decine di piattaforme, per cui le nostre azioni, non sarebbe le nostre azioni sono possibile fermarli tutti. Correttissimo, le nostre azioni sono negoziate anche su altre piattaforme che sono in Europa, nel Regno Unito e in altri paesi, quindi sostanzialmente non serve a nulla la scelta nostra di chiudere eventualmente le contrattazioni, ma ripeto, anche le scelte di farlo a livello aggregato fu fatto nel caso delle Torri Gemelle, ma perché è stato un favore fatto agli Stati Uniti, perché avevano problemi proprio di infrastruttura finanziaria e non riuscivano a finalizzare le operazioni, ma fu fatto per una ragione di emergenza e fu fatto comunque per un periodo di tempo limitato. In questo caso, francamente, sono fenomeni di mercato che insomma fanno parte del no, come nessuno chiede di chiudere le contrattazioni quando i mercati salgono del 10, del 20%, quindi non deve accadere quando scendono. Ascolti Gerusalmi, quanto è dovuto secondo lei ai sistemi automatici, agli algoritmi di trading, cali di queste dimensioni? Posto che un problema di fondo c'è, evidentemente è chiaro, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, quindi non è che stiamo attribuendo tutto agli algoritmi. No, ma la domanda è corretta, ma diciamo che l'algoritmo non è altro che quello che rimpiazza l'uomo di ieri, no? Per cui di fatto le decisioni sono sempre programmate da uomini che vengono inserite in queste macchine che poi eseguono sulla base dei modelli, delle ipotesi che vengono fatte da persone che le hanno programmate. Quindi la mia risposta è: oggi la grossa parte dell'attività avviene attraverso istruzioni di trading di questo tipo, come definisce lei, algoritmiche, però di fatto è come se fossero tanti uomini che agiscono, invece dell'uomo c'è la macchina, ma di fatto quindi dobbiamo semplicemente prendere atto che oggi la maggior parte dell'attività viene attraverso queste cosiddette black box. Maria? Senta Gerusalmi, Papa Francesco ha appena firmato un libro con Ugo Mattei, La dittatura dell'economia, e il Papa scrive: la finanza soffoca l'economia. Lei crede che il Covid-19 ci costringerà a ripensare diciamo le dimensioni della globalizzazione così come le abbiamo vissute negli ultimi 20 o 30 anni? Ma guardi, queste sono cose interessanti. Allora, diciamo che la verità è che la finanza è il motore dell'economia, nella realtà delle cose, perché di fatto è un fattore fondamentale per supportare la crescita delle imprese, la crescita dei progetti e la crescita e l'ambizione di tutti gli imprenditori che hanno un'impresa. Quindi da questo punto di vista io credo che il problema sia come contenere alcuni eccessi che la finanza ha avuto anche negli anni proprio della precedente crisi finanziaria. Ci sono degli eccessi che vanno contenuti e questi eccessi credo siano oggi molto più limitati, perché sono stati fatti una serie di interventi regolamentari proprio a limitare la leva, per esempio, che può essere utilizzata dagli istituti bancari o dalle banche in generale per operare sui mercati. Quindi credo che oggi siamo in una situazione molto diversa da allora e credo che alla fine il mercato sia più sano da questo punto di vista. Certamente la tentazione di magari fare qualche passo indietro sul fronte invece della globalizzazione, quella c'è da più parti, ma io credo che il nostro sistema ormai è molto interconnesso e che la globalizzazione sia destinata a continuare nel tempo, probabilmente con qualche forma di correzione. Grazie a Raffaele Gerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, per essere stato con noi. Chiudiamo qua, le auguro buona giornata, buon lavoro in giornate intense, intense. Cara Maria, buon lavoro Gerusalmi. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8:20, A domani, ciao a tutti. E con tutti gli altri, domani mattina alle 6:30, una buona giornata da Simone Spezia, ciao.